Barack Obama di nuovo alla fine della celebrazione per l'accensione dell'albero di Natale ha chiuso con questo messaggio molto ispirato: ricordiamoci che siamo un'unica famiglia, siamo la grande famiglia americana, stiamo vicini, stiamo insieme anche in questo momento di difficoltà, saremo insieme indipendentemente dal colore, dalle convinzioni, dalla religione, perché questa è l'America, un paese aperto, e dunque siamo tutti davvero una grande famiglia. Parole sacrosante, naturalmente, che tutti possono condividere, se non che purtroppo proprio in questi giorni c'è stato un episodio che ha così portato un po' di acidità proprio su quello che è lo spirito natalizio. E quindi da oggi anch'io mi allineo con questo Natale americano che parte prima e comincerò a farvi alcune storie che riguardano il Natale e riguardano lo spirito natalizio. Ecco, questa storia di oggi è una storia non bella ed è una storia di separazione invece di unione. Cosa è successo? È successo che una piccola chiesa battista del Kentucky ha votato con una maggioranza di 9-6 a favore di un bando delle coppie miste dai servizi religiosi. È una misura davvero odiosa, e questa decisione ha sollevato polemiche di ogni genere, naturalmente ha diviso la comunità locale. E è successo perché una ragazza bianca che svolgeva per la chiesa dei servizi di segreteria si è presentata alla messa insieme al fidanzato nero. E si chiama Stella Harvey, l'aveva suonato il pianoforte, e mentre invece il suo fidanzato Chika Chikuni, che è originario dello Zimbabwe, quindi un immigrato africano, come africano era il padre del presidente Obama, Chikuni cantava. Il pastore della chiesa Melvin Thompson si è scandalizzato, ha detto al padre della ragazza che la coppia non avrebbe mai più dovuto cantare nella chiesa, non avrebbero dovuto mettere piede insieme, insomma la cosa sembrava fosse morta lì. E invece il pastore ha insistito e ha voluto che ci fosse un voto proprio per bandire queste coppie miste. Keith Burden, che è segretario dell'Associazione Nazionale delle Chiese Battiste, spera che questa chiesa riconsidera la sua decisione, perché dice: non siamo né bigotti né razzisti. Vorrei vedere che spirito natalizio sarebbe.